Nuova edizione di Ababo Art City, Art Week meglio. Siamo qua con Cristina Francucci, direttrice, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per essere qua e essere presenti. L'Accademia di Belle Arti riapre le sue porte, lo fa anche in continuità perché continuano appunto i talk di Art City che erano andati così bene anche gli altri anni. In realtà iniziamo proprio il primo di febbraio con gli Art Talk City. Mi piace anche proprio sottolineare che tutto il programma, il ricco programma di proposte che presentiamo quest'anno, grazie anche alla collaborazione di Art City, piace sottolineare che è stato costruito con l'idea comunque che tutte le iniziative, tutte le attività avessero anche un grande valore formativo, educativo, rivolto agli studenti e alle studentesse, che poi quasi tutti hanno assolutamente collaborato alla realizzazione degli eventi, così come i docenti. E quindi anche per quanto riguarda Art Talk City è un momento anche importante di formazione per gli studenti, che possono dialogare e incontrare direttamente, no, gli artisti del main program, ma anche poi successivamente poter andare a vedere quindi le mostre e quindi le opere dal vero, così come formativo e anche l'attività di comunicazione che è stata fatta, perché gli appuntamenti sono annunciati da dei video che sono stati proprio realizzati dagli studenti di linguaggi del cinema e dell'audiovisivo, quindi di un corso, e diretti poi da Veronica Santi. Quindi ecco, come dire, tutto è fatto insieme, no? E questa è la cosa bella di un'istituzione comunque formativa e scolastica, in qualche modo universitaria. Poi un altro appuntamento importante è quello invece di X5, questa proposta, questo progetto espositivo, dove saranno in mostra diplomati dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, ma anche di Ravenna, che sono diventati artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. E anche questa non è solo una mostra, ma è accompagnata questa mostra da tutta una serie di attività, di incontri, di workshop che si faranno sia a Bologna che a Ravenna, insomma insieme agli studenti. Altra cosa importante è lo spazio Ababo Gallery ad Arte Fiera, quindi anche quello un momento significativo per gli studenti dei bienni di arti visive, 6 studenti e studentesse dei bienni di arti visive e anche di fotografia, che avranno l'occasione appunto di confrontarsi con il pubblico e anche di in qualche modo avvicinarsi a quello che è il mercato dell'arte, no? E poi importante anche un appuntamento con l'8ª giornata di studi sul restauro del contemporaneo, ed è curioso che in questo periodo in cui si parla solo del fare arte, è importante invece occuparsi anche di come conservare l'arte contemporanea. E quest'anno, questa edizione sarà dedicata proprio al cemento come espressione artistica. Ultimo, ma non ultimo nel senso proprio anche emotivo del termine, dell'importanza, come dire, emotiva di questa iniziativa, progetto Postcard for Iran, un progetto a cui si sono dedicate studentesse e studenti del iraniani e iraniane iscritte all'Accademia di Belle Arti di Bologna e anche artisti che si sono diplomate da noi, che ci hanno chiesto di collaborare, di aiutare nella realizzazione di questo progetto, di un'azione significativa che potesse essere a sostegno dell'attività che viene svolta dal popolo iraniano, sostegno appunto contro il regime oppressivo attuale del regime appunto iraniano. Cosa è stata fatta? È stata fatta una call sia iraniani e iraniane residenti nel loro paese, ma anche al di fuori, quindi persone residenti in tutto il mondo, di mandare delle cartoline in segno di protesta, ma anche di speranza, ma anche di testimonianza rispetto all'attuale situazione. E quindi nessuno si sarebbe aspettato di ricevere più di 800 cartoline, che abbiamo raccolto e che fanno, con le quali abbiamo realizzato una grande opera collettiva che è esposta, sarà visibile dall'1 febbraio qui nei corridoio dell'Accademia di Belle Arti, così come ci sarà un'azione performativa sempre realizzata con il contributo degli studenti e delle studentesse in collaborazione con la Consulta degli studenti dell'Accademia di Bologna e con la partecipazione e la collaborazione del professor Gianluca Costantini, che ha dato anche l'immagine a tutto questo progetto. Appunto, dicevo, un'azione performativa che si svolgerà dalle 19 alle circa mezzanotte ogni mezz'ora. Quindi questo sarà un importante contributo e segno che l'Accademia intende dare proprio di sostegno al popolo iraniano e alla loro coraggiosa lotta. Tanta attualità, tanto spazio all'arte, agli studenti e alle studentesse. Dall'1 al 5 febbraio, ricordiamo, a Babo Art Week, appunto qua, tra le mura dell'Accademia. Sì, grazie, vi aspettiamo numerosi.